Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi cominciamo con una storia. C'era una volta un gigante, il suo nome era Atlante. Atlante, figlio di Giappeto e di Asia, fu condannato da Giove a reggere sulle spalle il peso del mondo. Il gigante possedeva il giardino delle Esperidi, dove crescevano e maturavano i famosi pomi. Un giorno Ercole chiese ad Atlante di poterne cogliere qualcuno. Atlante, che voleva fargli pagare cara questa ardita richiesta, si offerse di andare egli stesso a coglierne tre, purché, nel frattempo, Ercole reggesse al suo posto il mondo. Ma quando Ercole si fu addossato il carico, Atlante non volle più riprenderselo. Ercole, che in fatto di astuzia non aveva bisogno di maestri, finse di rassegnarsi, ma pregò Atlante di sostituirlo per dargli il tempo di prepararsi un guanciale per attutire il grave peso del mondo che doveva sostenere. Atlante ci cascò e il resto si indovina. Anche noi scaricheremo volentieri quel peso, quella sensazione dolorosa che a volte avvertiamo proprio tra capo e collo, ma a volte liberarsi di questo fardello non è facile. Per questo oggi vi insegneremo ad evitarlo. Ci occuperemo di colli dolenti e scricchiolanti, un po' fissi, arrugginiti, impacciati nei movimenti. Se soffrite di cervicali, restate. Se non volete soffrirne in futuro, fidatevi e affidatevi ai nostri esperti. Prevenire è sempre meglio che curare. Qui in studio con me il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Daniela Vernazza, coordinatrice dei fisioterapisti del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno anche a lei e bentornata, dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Il nome tecnico è cervicalgia, ma per tutti è cervicale, che per molti è sinonimo di dolore, quindi alla fine, cari amici, diciamo tutti la stessa cosa. Mi fa male vederti così triste, mi fa male saperti senza me, mi fa male nessuno che ti assiste, mi fa male. Mi fa male, tratto dall'album di Celentano Per sempre del 2002. Il dolore può presentarsi dopo molte ore trascorse davanti al computer, oppure al risveglio, in seguito ad un colpo di frusta. Il dolore dalla nuca può irradiarsi alla testa, alle spalle, alle braccia come un serpentone, può essere accompagnato da altri disturbi, formicoli, mal di testa, vertigini, problemi di vista e di udito. C'è chi si rassegna aspettando che passi, chi prende farmaci per trovare un po' di sollievo, chi invece decide di rivolgersi al medico. Voi potete chiamare senza indugio il nostro numero verde per raccontarci avventure e disavventure del vostro collo, 800 24 00 24. I messaggi, se volete scriverci, 349 238 6666. Dottor Respizzi, chi ha la testa sul collo sa già cosa deve evitare per stressarlo, ma le attenzioni non sono mai abbastanza, perché abbiamo a che fare con una struttura, posso chiamarla così o le piace di più un complesso articolare, molto molto delicato. Sentire per credere. Nello spazio limitato del collo si trovano a stretto contatto numerosi organi e strutture. Lo attraversano infatti fondamentali vasi sanguigni ed elementi del sistema nervoso, come l'arteria carotide comune, la vena giugulare, il nervo vago, numerosi muscoli, il primo tratto degli apparati respiratorio e digerente, ed è sede della tiroide e delle paratiroidi. Le prime due vertebre cervicali hanno particolarità anatomiche che permettono alla testa una grande mobilità. Il collo ha possibilità di escursione molto estese e rappresenta uno dei complessi articolari più delicati del corpo. In caso di dolore, provocato in particolare da difetti nella postura, da stress, da scarsa forma fisica, cioè di accertata natura benigna, esistono opportuni esercizi che ne diminuiscono l'entità. Dottor Respizzi, basterebbe un tocco per sciogliere il mal di collo, naturalmente effettuato da mani esperte, con una buona diagnosi. Invece, per tagliare la testa al toro, si preferisce affidarsi a farmaci, peregrinare da un medico all'altro e da un esame all'altro. Una ricerca dell'Università del North Carolina, svolta, pensate, su oltre 5.300 persone alle prese con un dolore cronico al collo, evidenzia che nonostante gli esercizi siano molto efficaci, vengono consigliati solo un paziente su due. Si fa invece largo uso di farmaci e non si risparmiano gli esami. Il 45% del campione è stato sottoposto a radiografie, uno su tre ha fatto la risonanza magnetica, uno su quattro la TAC. Dottor Respizzi. Beh, io direi che la scheda descriveva benissimo questo complesso articolare, oppure questa struttura. È talmente raffinato, è talmente complesso appunto che non a caso quelli che hanno inventato il ghigliottina hanno pensato di passare di lì, così in un attimo il paziente... Togliamo il problema. Però questa necessità che noi abbiamo di curare il collo è perché il collo è anche un punto, ad aggiungere quanto già detto, di tensione psichica. Mm. Quando siamo stressati, quando abbiamo qualche problema, ci sentiamo più duri in quella zona, certo, lì, più contratti in quella zona lì. Quindi c'è da aggiungere anche il cervello, che bene o male incide su tutto il nostro corpo. Quindi purtroppo ci si affida spesso a una diagnostica esagerata, ad approfondimenti esagerati. E in questo direi che internet ha ulteriormente aggravato la situazione ultimamente. Si pensi che addirittura la società di radiologia, nelle proprie linee guida, sconsiglia neanche di fare una lastra, cioè non consiglia neanche di fare una lastra al primo episodio di cervicalgia, quindi zero, nessun esame. Non fate nulla, tenetevi nulla. Il vostro collo. No, fatevi visitare, sì, perché un esame medico fatto bene è più che sufficiente per capire se ci sono problemi o no. Certo, se dovessero persistere i dolori o ripetersi in tempi brevi, in quel caso allora gli approfondimenti vanno fatti. Quindi non è indispensabile assolutamente nessun approfondimento diagnostico per porre una diagnosi corretta di cervicalgia, quella che noi chiamiamo benigna. Mm. Perché adesso abbiamo parlato un po' di tutto, ma naturalmente è diverso, il colpo di frusto è un'altra cosa. Mi riferisco a quei dolori del collo che ogni tanto abbiamo al mattino quando ci svegliamo, che ci vengono durante il giorno, quindi è qualcosa che di base non ha nulla di organico grave, intendo dire. Ma il collo a rischio qual è? Proviamo a descriverlo. È del sedentario, di quello stressato, lei ha nominato lo stress, sì, la cattiva postura, e o sarà colpa dell'artrosi o dello spiffero del finestrino che abbiamo tenuto aperto. Io penso che se ci mettessimo a fare la lista delle cause non finiamo la puntata. Sì. E quindi veramente le variabili sono tantissime. Proprio per questo motivo noi dobbiamo capire il sintomo che ci segnala il paziente, a che cosa è correlato. È chiaro che un paziente che ha una postura sbagliata durante la vita giornaliera, la vita quotidiana, è più facilmente avrà delle contratture muscolari. Quindi questa è la persona che io considero più a rischio e che risponde di solito all'80-90% dei casi. Mm. Pazienti che devono subire un intervento di collo, sì, intervento cervicale, sono il 2-3% dei pazienti, quindi stiamo parlando di una piccolissima nicchia. Abbiamo Adele che ci chiama da Brescia all'800240024. Buongiorno Adele. Buongiorno e vi ringrazio di avermi chiamato e saluto una buona giornata a tutte e due. Grazie. Senta, grazie. Io veramente è una settimana che sto soffrendo tantissimo per l'artrosi cervicale. Soffro da tempo, ma poi mi si uniscono due tipi di mal di testa, ma questa sicuramente è l'artrosi, perché dedotto dalle lastre che mi ha fatto il mio medico, mi ha anche detto che ho due protusioni al collo, mi sembra C5, C6. Sì. Ma volevo chiedere appunto all'esperto se era possibile che dalle spalle, dalla nuca, si potesse proprio andando in alto, passando tutto il mezzo della testa, sotto gli occhi, sulla fronte, come se fosse una mazzetta che mi stacca la fronte, una cosa molto fastidiosa, Adele, immagino. No, ma proprio fa venire un po' anche nausea, e vertigini no, ma tanta nausea sì. Perché il collo ha una posizione molto particolare, abbiamo visto che è una struttura complessa. La descrizione della paziente è perfetta, nel senso che spesso, questa è la cosa più frequente che viene detta, ho questa sensazione, ho un po' di artrosi della cervicale, ma ricordiamoci che l'artrosi cervicale è una diagnosi di tipo radiologico, non è poi quello che... ci sono pazienti che hanno artrosi che non hanno assolutamente nessun sintomo. Mm. I sintomi che descrive la signora sono tipicamente da contrattura muscolare. Noi dobbiamo ricordare che anche nel cuoio capelluto esistono dei muscoli, quindi se si contraggono i muscoli posteriori del collo, anche quelli sopra, sul capo, naturalmente vanno in controcontrattura e si può arrivare addirittura fino ad avere un fastidio a livello degli occhi. Quindi quello che descrive la signora è un quadro di contrattura, di tensione muscolare molto elevata. I massaggi, in questo caso naturalmente ci sono terapie da fare, naturalmente, ma la cosa importante è provare a risolvere preventivamente le condizioni che portano a questo stress del collo della nostra ascoltatrice. Dottoressa Vernazza, cerchiamo di misurare lo stato di salute del nostro collo. Arrivano già tanti messaggi al 349-238-6666, il collo ce l'abbiamo tutto e molti di noi dà dei disturbi. Ho letto dei numeri impressionanti che non voglio riportarvelo, ma come si dice, mal comune mezzo gaudio. La retromarcia è diventata difficile e dolorosa perché il tuo collo è rigido e dolente? Guarda in su, guarda in giù, diceva la filastrocca. Ma il tuo collo, cosa dice quando esegui questi movimenti? Hai la testa sul collo, questo è certo, ma osserva la sua posizione. È proteso in avanti, infossato tra le spalle o rivolto leggermente all'indietro? Dottoressa Vernazza, tre situazioni, le chiedo tre indicazioni. Dunque, queste caratteristiche descritte adesso di dolore quando si fa retromarcia, quando si guarda verso l'alto, quando ci si curiosa un pochino nella nostra postura e nel riflesso in una vetrina, sono proprio sinonimo di tensione. Tutte noi vorremmo avere un bel collo lungo, da cigno. Sì, alla Modigliani. Alla Modigliani, ma non è così. Un esercizio che sicuramente ci aiuta, perché tutte queste sintomi sono legati proprio a quella tensione che per motivi fisici o motivi psicologici, come ricordava il dottore Spizzi, ci portano appunto ad accumulare tensione e poi quindi un accorciamento proprio delle articolazioni, della muscolatura, quindi uno schiacciamento maggiore delle articolazioni tra di loro, possono essere risolti con un esercizio di allungamento. Facciamo conto di essere come una lumachina raccolta nel guscio che si srotola e si vuole allungare e distendere sul piano d'appoggio. Se noi siamo seduti con la schiena appoggiata alla parete... Adesso noi proviamo. Si può fare anche per gli ascoltatori che sono in macchina o è pericoloso quello che lei ci sta per dire? La differenza è che in macchina c'è appoggia a testa, non c'è diciamo la parete che ha una continuità, ma immaginando appunto di avere appoggiato il collo e la nuca alla parete, cerchiamo proprio di srotolarci, di allungarci, distenderci in modo da avere il famoso collo da Modigliani, ma soprattutto per allungare la nostra muscolatura che è così in tensione e rigida. Luis mi scrive, perché noi oggi suggeriremo con la dottoressa Vernazza tanti esercizi per mantenere il nostro collo in buona salute, naturalmente ci occuperemo anche di colli dolenti e doloranti e arrugginiti, ma Luis mi scrive, si dice che scrivendo ipoteticamente con la punta del naso i numeri da 0 a 9 giovi al collo. Certo, questo potrebbe essere sicuramente un esercizio valido, anche noi in palestra suggeriamo questa tipologia di esercizi, proprio per non focalizzare l'attenzione troppo sui muscoli, sul dolore, ma cercando di fare attività funzionali, così per esempio succede disegnando con la punta del naso dei numeri, compiendo dei cerchi. Io faccio un cerchio ad esempio. Esatto, anche un cerchio nello spazio, un cerchio che va da destra a sinistra, cioè una linea che va da destra a sinistra, sono tutti movimenti che ci danno un obiettivo da raggiungere, ma in questo modo ci permettono di compiere dei movimenti coordinati con tutta la struttura del collo, con tutta la muscolatura del nostro collo. E invece sciogliere un pochino le spalle, provo anch'io adesso. Certo, Nicoletta prova a sollevare le spalle verso le orecchie, insistendo, esagerando anche un pochino, e poi viceversa, le lascia andare giù lentamente, stiracchiando ancora un pochino verso il basso. In questo modo noi lavoriamo sulla muscolatura dei trapezi, che è molto coinvolta nelle tensioni legate alla cervicale. Quando noi parliamo della cervicale, tante volte poi il problema è proprio su questa muscolatura che è anche collegata alle spalle. Questo potrebbe essere un modo, proprio fare spallucce. Fare spallucce. Paolo da Varese, buongiorno. Buongiorno. Faccia spallucce anche lei. Ma sì, ogni tanto li faccio anch'io. Senta, io volevo chiederle questo, io soffro un po' di cervicale sulla parte sinistra del collo, no? E mi prende anche un po' la spalla e ogni tanto mi si informigola la mano, no? E faccio un lavoro praticamente o sono seduto o sono in macchina, quindi non è che mi muovo tanto, però da un anno e mezzo, due anni a questa parte ho problemi anche la parte sinistra in basso della schiena, sì. E non riescono a capire cos'è, perché la schiena è a posto, ho fatto risonanza magnetica, ho fatto tutto, l'astro eccetera, ma è a posto, però a me da questo fastidio, non un male, è proprio un fastidio, volevo capire se magari poteva dipendere anche dalla cervicale questa cosa. Certo, perché questo dolore, questo fastidio, come ci racconta Paolo, che cammina lungo le strutture nervose, che sembra. Migra, che migra. Sempre colpa del collo. Esatto, naturalmente sì. L'ascoltatore ha introdotto un tema molto importante, che è quello delle cervicobrachialgie, o comunque delle radiazioni. Come si chiamano? Cervicobrachialgie, cioè dolore che parte dal collo e va verso il braccio. E questa è una cosa molto diversa rispetto alla cervicalgia benigna, perché significa che c'è da qualche parte nel tratto della cervicale una compressione su una radice nervosa, nel caso dell'ascoltatore a sinistra. Quindi lui ha un'irradiazione del dolore verso il braccio semplicemente perché le radici nervose che partono dal collo vanno al braccio, fino alla mano. Quindi i pazienti che hanno problemi di cervicobrachialgia possono avere ad esempio formicoli alle dita delle mani, quindi molto periferiche. Nel caso del nostro ascoltatore, evidentemente c'è anche un interessamento della muscolatura che decorre lungo la schiena, che è molto lunga, che parte dal collo e arriva addirittura fino alla natica. E quindi lui non ha una sciatica, per sua fortuna, ma ha una radicolite, cioè l'irradiazione del dolore verso il basso lungo il decorso dei muscoli. Ricordiamoci che i muscoli posteriori, ad esempio il multifido, veramente sono lunghi praticamente un metro, fanno tutta la schiena e sono tutti collegati uno con l'altro. Quindi è probabile che a partire da una origine cervicale l'irradiamento arrivi addirittura fin quasi al fianco sinistro. Quindi attenzione, possiamo dire, ai formicoli, a quella sensazione, anche alle dita fredde delle mani? Assolutamente sì, anche se in questo caso bisogna distinguere se il formicolio è causato da un problema vascolare o da un problema neurologico. Noi oggi parliamo di aspetti neurologici, ma non bisogna anche dimenticare che ci possono essere anche aspetti vascolari. Quindi ancora più importante la diagnosi differenziale tra le due cose. Chi la fa la diagnosi differenziale prima di andare ai mercati? Noi dobbiamo cercare di farci vedere da qualcuno, insomma una rondine non fa primavera, di dolore al collo ce l'abbiamo tutta, si fanno gli esercizi, si scrivono i numeri con la punta del naso, si fa spallucce eccetera, però si passa poi al medico di base e poi qual è? Perché ci sono tante figure che ruotano intorno al nostro collo. Assolutamente sì. E tanti anche esperti, penso ai fisioterapisti ma anche ai posturologi, agli osteopati, ai chiropratici. Certo. Mi faccia un nome. Allora, io andrei da un fisiatra, visto che lo sono, sembra evidente, ma non è un conflitto di interessi, nel senso che il fisiatra è il medico che si occupa di recuperare la funzione e spesso queste problematiche sono legate a una riduzione della funzione, una mini disabilità, diciamo. Quindi io penso che lo specialista più idoneo sia il fisiatra. Allora, 349-238-6666, mi scrive un ascoltatore, Nicoletta, meglio dire aver compagno al duol scema la pena. E con questa vi saluto perché adesso facciamo una breve interruzione per i mercati e il meteo e poi vi aspetto per parlare del vostro collo. Noi vogliamo che voi abbiate la testa sul collo, questo ce l'abbiamo, ma che il vostro collo stia bene. Per cui seguiteci, prevenire è sempre meglio che curare. A tra poco. A voi, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene. Era ora! Dopo 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Frena! Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi! Aladino, anche lui aveva il mal di collo, il genio della lampada intrappolato per tanti anni, era anche noi come noi, però siamo intrappolati in cattive posture e in situazioni che certo al nostro collo non fanno bene. Dottor Respizzi, lei ci ha già anticipato che c'è cervicalgia e cervicalgia. Attenzione se avete il formicolio, può essere questa sindrome cervico-brachiale, come la definita lei, che proprio si chiama così perché presenta un interessamento delle radici nervose e provoca, oltre che il dolore classico al coppino, esatto, no? Alla nuca, giusto, al braccio, fino ad arrivare anche alla mano. Ma ci sono altri due tipi di cervicale, una più frequente proprio... La benigna, che è la contrattura muscolare che soprattutto è alla base del capo, quindi se ci si tocca qua dietro posteriormente dove finisce il collo, lì sì, fa male. Sì, dove c'è quella specie di fossettina, o ce l'ho solo io? No, ce l'abbiamo tutti. Ah, va bene. E dove c'è l'occipite, schiacciando lì di solito fa male, quasi tutti hanno male. Lì è dove si inseriscono i muscoli che tengono sulla testa. Noi abbiamo anche un difetto strutturale. Abbiamo la testa molto grossa come mammiferi rispetto alle scimmie, rispetto ad altri, ed è tutta spostata in avanti e quindi tende a cadere in avanti perché abbiamo un crapone bello grosso, sentini di cervello naturalmente, e questo mette in tensione i muscoli posteriori proprio perché come leva è sfavorevole, ma d'altro canto è un'altra cosa da pagare visto che siamo così intelligenti evidentemente. E quindi questo è uno degli aspetti che di solito è quella la benigna, come dicevamo. Quella c'è stata prima, la cervico brachiale, e invece è un sintomo, se compare questo sintomo formicolia alla mano, che richiede di solito già degli accertamenti di tipo diagnostico. In questo caso sì, è utile, anzi indispensabile, fare almeno una radiografia del collo e eventualmente, se ci sono le indicazioni, una risonanza o una TAC. Diciamo una o l'altra perché sono due esami che hanno indicazione diversa. La TAC è più utile per vedere problemi dell'osso, sì. La risonanza magnetica è più utile per vedere problemi invece dei dischi intervertebrali, delle radici nervose, dei legamenti. Quindi sarà un medico a decidere se è necessario indagare una cosa piuttosto che l'altra. Abbiamo Giorgio da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Mi sente? Io la sento. Allora, volevo chiedere una cortesia. La mia cervicale è fatta in questo modo. Quando sollevo un peso piuttosto pesante, mi succede che ho una fitta al collo, come veramente una stilettata a parte al collo, che mi costringe a deporre il peso che ho. Quindi Giorgio, lei non può aiutare una signora a mettere la valigia, ad esempio quando è in treno, a riporre la valigia in alto. Forse hanno tutti mal di collo, dottor Respizzi, perché ormai non c'è più nessuno che ti aiuta. Oppure anzi, ci aiutiamo noi tra donne. Proprio lunedì ero in treno al ritorno da Roma e facevamo noi i facchini, perché non si è alzato nessuno. Comunque, scusi Giorgio, ma me la sono vista in treno. Dottor Respizzi, allora quindi le valigie non si possono portare su? No, in questo caso il nostro ascoltatore esprime con questa sua difficoltà una carenza di forza, perché se no non dovrebbe accadere questo fenomeno. Quindi probabilmente i muscoli di Giorgio non sono così tonici da potergli consentire questo tipo di movimento. E questo è un altro degli aspetti che noi possiamo utilizzare anche a scopo preventivo, cioè il rinforzo della muscolatura. Come diceva prima anche Vernazza, se noi facciamo degli esercizi specifici sul collo, sulla muscolatura del collo, che sembra poco, che sembra piccolina, perché in effetti non è molto evidente, possiamo fare in modo che il collo si muova meglio e che sia più preparato, predisposto anche al sollevamento, ad esempio, di un peso, come descriveva l'ascoltatore. Esercizi quotidiani, dottoressa Vernazza, 5 minuti al giorno a disegnare le lettere, i cerchi, a fare il spallucce, ma ci sono anche delle attività piacevoli, penso ad esempio al Pilates, delle tecniche, lo yoga. Quali sono, dove possiamo rivolgerci? Cosa possiamo fare per aiutare il nostro collo a mantenersi forte? Forte. E questo è l'aggettivo elastico giusto. E forte. Elastico e forte. Dunque, le tecniche sono davvero tantissime, l'elenco è infinito. Sicuramente il Pilates, che ultimamente è molto di moda, dà uno sguardo un pochino più allargato su tutta la struttura, non solo del collo ma anche proprio di tutto il corpo, e dà molta attenzione all'allungamento muscolare, che è uno dei problemi maggiori di cui soffre la persona che ha dolori cervicali. Il respiro, la postura, sono tutte cose che sono molto legate tra di loro e che... Il Pilates... insegna. Il Pilates sì, e potenzia. Ma ci sono anche lo yoga, ci sono tutti quegli esercizi legati al mantenimento dell'equilibrio. Abbiamo la Wii ultimamente come aiuto noi fisioterapisti. La usate, vero? Me lo diceva anche il dottor Respizzi, noi abbiamo utilizzato anche la tecnologia questa per aiutare, per dire ai nostri amici, muovetevi, se non certo, fuori di casa certo, a caso. Queste pedane collegate sì, alla servono, dottor Respizzi? Servono assolutamente sì, perché sviluppano la capacità di equilibrio. Mm. Ora, se noi siamo più capaci di essere in equilibrio, abbiamo muscoli meno contratti e più flessibili. Di solito noi ci limitiamo a posture molto vincolate, sì, una scrivania, davanti a un monitor, in macchina, in auto, poi ci si arrabbia pure, quindi è ancora peggio perché si afferra sì, violentemente il volante, no? Mentre invece queste tecniche sono molto dinamiche, sono molto favorenti l'elasticità muscolare. Allora, l'unico difetto che ci vedo è quello che spesso sono ancora una volta vincolate a un monitor di un computer. Quindi io consiglierei il pro, come pro, bellissimo perché fa esercizi. Come contro, state attenti a non stare fissi su una di queste piattaforme per un'ora a fare i matti, a fare i giochini, perché poi se si continua a fissare il certo, monitor si ritorna indietro un'altra volta. Dottoressa Vernazza, io vorrei che lei ci desse anche qualche consiglio per prevenirla questa cervicale. E, proverei iniziando dal mal di collo che si avverte la mattina. Si dà colpa al cuscino, no? Perché uno dice avevo troppo basso, oppure per chi magari per lavoro cambia spesso cuscino perché va in albergo, eccetera, era troppo alto, era troppo basso, era molle, era duro, eccetera. Certo. Ecco, può avere il cuscino, può aiutare il nostro collo a stare bene o al contrario può costituire un fattore di rischio, un pericolo? In qualche caso sì, diciamo che ognuno di noi ha le proprie preferenze in quanto a comfort, quindi assecondare un pochino quello che spontaneamente uno farebbe probabilmente è un po' la risposta giusta, sì, quindi più rigido, più morbido, a seconda proprio delle esigenze individuali. Sicuramente il cuscino deve sostenere la testa in modo che rimanga allineata al resto del corpo, al dorso, quindi un cuscino troppo voluminoso per esempio obbliga una maggior flessione del capo in avanti e quindi sicuramente non è una postura corretta da mantenere a lungo durante la notte. Però poi in realtà non è il cuscino responsabile dei nostri guai al risveglio al mattino, è perché probabilmente lo stress e la tensione accumulata durante la giornata continua anche durante la notte. Uno dei problemi maggiori legati alla tensione che noi accumuliamo sul collo è proprio questa. Ci irrigidiamo molto, un po' perché siamo obbligati per lavoro magari a stare seduti a una scrivania in posizioni scorrette, oppure perché abbiamo litigato col collega di lavoro, eccetera, e quindi si sviluppa questa tensione muscolare che poi ci portiamo dietro anche di notte. La cosa importante da fare è essere consapevoli, pensarci durante la giornata che noi stiamo accumulando tensione e sentire che le spalle si sollevano, la testa si infossa in avanti, eccetera, già solo questo ci permette di correggerci. Raddrizzare il tiro. Esatto. O il collo. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. A me il collo, 800 24 00 24, le cause sono diverse, numerosi, le tensioni, lo stress, la cattiva postura, a volte anche un po' il cuscino, a noi piace scaricare la colpa su qualcuno, ma se la causa del nostro mal di collo, cervicalgia che si voglia dire, dipendesse da altro, ad esempio dal modo in cui chiudiamo la bocca. Il problema è molto dibattuto, ma cerchiamo di capire i termini della questione insieme al professor Roberto Deli, che è direttore della scuola di specializzazione in ortodonzia all'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno dottoressa. Professore, che c'entrano i denti, o meglio, il modo in cui chiudiamo la bocca con il nostro collo? Beh, innanzitutto dobbiamo tenere presente che la mandibola, no, che è la parte mobile del nostro cranio, sì, è strettamente legata con i suoi muscoli anche ai muscoli del collo. Sì. Per cui in funzione di come noi muoviamo la mandibola nel mangiare, nel deglutire la saliva, nel parlare, ovviamente abbiamo dei riflessi anche sui muscoli del collo, che sono quelli, nella maggior parte dei casi, che sono dolenti. Professore, andiamo davanti allo specchio. Ci aiuti a capire, un po' con il suo occhio clinico, se la nostra occlusione potrebbe rappresentare un rischio per il benessere del nostro collo. Io lo specchio non ce l'ho, ma mi faccio vedere dal dottor Respizzi, così gli scrocco una visita. Certo, beh, che in fin dei conti è la cosa migliore. Però, in ogni modo, io penso che anche guardandosi allo specchio, magari vedere se il movimento di apertura e di chiusura della propria mandibola ha un movimento asimmetrico, è già una cosa importante. Altri aspetti possono essere anche nella chiusura, ad esempio se abbiamo una situazione in cui gli incisivi superiori coprono eccessivamente gli incisivi inferiori, questa qui è una situazione di rischio, di rischio sia per i muscoli masticatori e quindi magari dare cefalee, sia per i muscoli del collo. Siamo tutti qua, vedo anche Carmelo Lauricelli in regia, che ha la parte tecnica, e anche il dottor Respizzi, stiamo qua a misurarci gli incisivi. Senta prof, passiamo ad un secondo livello di osservazione, proviamo anche a riconoscere alcuni segnali che in qualche modo potrebbero metterci sulla strada. Ad esempio, ci sono persone che nell'aprire e chiudere la bocca avvertono uno scricchiolio, un po' come se l'articolazione fosse un po' arrugginita, non so come spiegarmi. Ecco, questi rumorini, queste tensioni, questo dolorino, può essere in qualche modo una piccola spia? Sicuramente è un campanello d'allarme, questo scricchiolio qualche volta è uno scricchiolio, qualche volta invece è un vero e proprio clac. Mi ricorderò sempre una storiella, posso raccontarla? Certo. No? Di una mia paziente, era una suorina, che mi raccontò, cioè venne da me per una visita e mentre aprì la bocca io sentii un grosso scrocchio nella sua articolazione. Gli domandai, dico, ma suore Emanuela, ha mai guardato questo, ha mai notato questo click? E lei mi disse, guarda, è stato l'incubo della mia infanzia, perché quando eravamo in refettorio e dovevamo stare zitti, io tutte le volte che mangiavo facevo questo clac e la madre superiore mi metteva sempre in punizione. Poverina suora Emanuela. Ecco, e fortunatamente riuscimmo a eliminare questo scrocchio articolare e quindi perciò con esso passarono anche tutte le dolenzie che lei aveva nel collo, alla schiena, tutti questi malesseri abbastanza diffusi ma molto frequenti. Professore, però suora Emanuela se ne accorgeva perché aveva questo disturbo e si verificava al mattino, ma c'è chi ad esempio digrigna i denti di notte. Brooks, il disturbo viene spesso riferito non dal diretto interessato ma da chi gli dorme accanto. Ci potrebbe essere una relazione? Ma la relazione c'è sicuramente, perché in fin dei conti serrare i denti o bruzzare, cioè digrignare, significa lavorare durante la notte, quindi non avere un buon riposo. E questo lavoro muscolare molto probabilmente ce l'abbiamo anche nei muscoli del collo e nei muscoli del dorso. Quindi è facile che al mattino uno si svegli indolenzito un po' su tutto il corpo. In conclusione, professore, non ci sono dati proprio scientifici che confermano in modo inequivocabile la relazione tra problemi di occlusione e mal di collo, ma dia un consiglio ai nostri ascoltatori che hanno magari un sospetto. Ma io direi che innanzitutto tagliatevi il collo, innanzitutto magari sentire anche l'ortopedico per escludere casi che possono essere reumatici, che possono essere proprio legati alle vertebre. Sì. Se il problema è muscolare, io direi che sono importanti sia i problemi della postura generale del corpo, sia i problemi odontoiatrici. Certo, quindi di tenere un po'... Quindi una visita dall'ortodontista o dall'ognatologo, chiamiamolo così, è una cosa importante. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Adesso ci misureremo tutti gli incisivi e cerchiamo di capire, sentire se facciamo clac o clic. O meno. Grazie al professor Daly per essere stato con noi. Dottoressa Vernazza, molti danno la colpa al computer. Sto tante ore davanti allo schermo e mi incricco un po' perché magari proprio quando uno è al computer lavora, quindi le tensioni e lo stress del lavoro c'è. un po' forse perché siamo un po' seduti male, utilizziamo questo mouse in modo non adeguato. Un minutino, una raccomandazione, un consiglio semplice semplice, in modo che anche chi ci sta ascoltando magari dall'ufficio possa raddrizzare il tiro. Sicuramente la posizione seduta confortevole con una sedia possibilmente ergonomica che sostiene la schiena, con il monitor davanti, non di fianco, con la possibilità di appoggiare le braccia al tavolo mentre si utilizza il mouse, sono sicuramente suggerimenti importanti. Di fatto anche quando si seguono questi suggerimenti, poi la postura, se viene protratta nel tempo, è comunque un danno per i nostri muscoli, perché non hanno la possibilità di contrarsi ma rilasciarsi poi. Certo. Quindi forse anche dare un occhio all'orologio e capire quanto tempo si è passato davanti al monitor e sospendere un attimino. E fare spallucce, esatto, cerchi con la punta, esatto, del naso, lasciamoci, esatto, così. Esatto. Occupati i prossimi minuti a fare questi esercizi, un po' di spallucce, ritornate domani a trovarci. Dottor Respizzi, dottoressa Vernazza, grazie per essere stati con noi. A voi. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.